Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo dedicato molte puntate a raccontare le potenzialità della stampa 3D e le nuove strade che questo nuovo modo di produrre sta aprendo. Questa sera vogliamo invece soffermarci per un attimo sui limiti delle tecnologie additive. Limiti intrinseci e anche limiti che invece sono figli più che altro della storia della stampa 3D e che quindi possiamo attenderci vengano superati anche abbastanza presto. Ne parliamo con Barbara Previtali, che è professoressa del Dipartimento di Meccanica e responsabile delle attività del CITEC, Laboratorio per le Applicazioni Laser del Politecnico di Milano. Buonasera Previtali. Buonasera. Allora Previtali, partiamo appunto dai limiti un po' intrinseci a questo processo di stampa additiva. Sì, noi siamo soliti chiamarli più che limiti, caratteristiche o firme del processo. Abbiamo un processo di fusione e in particolare di metalli. Parliamo soprattutto di metallo perché è lì che si gioca la grande partita, no? L'idea che la stampa 3D entri prepotentemente nel mondo industriale, beh, questo passa dalla stampa dei metalli sostanzialmente. Stampa dei metalli che viene utilizzata per produrre componenti che hanno delle caratteristiche funzionali e meccaniche elevate e come tale ci dobbiamo aspettare che precisioni, tolleranze dimensionali e finiture superficiali siano all'altezza delle funzioni che l'oggetto deve garantire. In questo, con la stampa 3D, spesso otteniamo dei grezzi o dei semi lavorati che hanno ancora rugosità elevate e precisioni che devono poi essere ricondotte ai valori desiderati da altre operazioni. Ecco, perché che cosa succede? Due cose fondamentalmente, no? Succede che la polvere che viene fusa e in parte sinterizzata lascia una superficie, permettetelo, a buccia d'arancia, sì. E succede che il processo di fusione crei oggetti che siano dal punto di vista termico deformati o che abbiano un volume e delle dimensioni difficilmente controllabili. Prevedibili, perché quando si raffreddano si contraggono sostanzialmente. Non è così facile calcolare queste contrazioni, per esempio, no? Soprattutto perché la contrazione dipende dalla storia termica e quindi anche dalle masse in gioco. Posso stampare oggetti molto piccoli vicino a oggetti molto grandi così facendo avrò sicuramente un comportamento non uniforme per degli oggetti, perché si disturbano, per così dire, a vicenda. Queste sono le caratteristiche del processo che in qualche modo poi producono una firma o una risultanza che dobbiamo imparare a conoscere e a controllare e a portarci nella progettazione. Ecco, poi forse dei limiti delle attuali stampanti 3D invece derivano dalle radici che affondano nel mondo della prototipazione soprattutto. Sì, storicamente la stampante 3D, soprattutto per il metallo, era un metodo per ottenere prototipi e quindi i sistemi sono ancora molto ingenui e non orientati alla produzione industriale. Faccio riferimento soprattutto alla problematica della movimentazione della polvere, ad esempio, piuttosto che alla flessibilità rispetto ai parametri e ai materiali che vengono prodotti. Cioè sono delle macchine un po' rigide che funzionano con pochi materiali e il tema della gestione delle polveri cosa vuol dire? Per esempio caricarle, rimuoverle alla fine della lavorazione, sono tutte cose che oggi vengono fatte a mano sostanzialmente. Nei sistemi più vecchi vengono fatte a mano o nei sistemi più flessibili che prevedono l'utilizzo di diverse polveri vengono fatte a mano dall'operatore. Quale deve compiere delle operazioni manuali anche pesanti dal punto di vista fisico. Fisico, certo. Spostare questi oggetti sono tutte cose che nel mondo industriale diciamo non esistono. Cioè ci si pone assolutamente questi problemi, no? Non esistono perché allungano i tempi e i tempi sono sicuramente legati ai costi e soprattutto non rendono ripetibile il risultato. E poi c'è un terzo aspetto invece che non riguarda tanto le macchine o la tecnica di stampa 3D, ma riguarda chi la usa, no? Possiamo dire così. Sicuramente i limiti possono essere visti anche come delle potenzialità, ma solo nel momento in cui cambia la testa di chi progetta i prodotti che verranno ottenuti da queste macchine. Faccio per esempio riferimento alla rugosità superficiale. Dicevo che le superfici sono molto ruvide e grezze, ma questo può diventare un vantaggio nel momento in cui sto realizzando un componente biomedicale che vada inserito all'interno del corpo umano, per il quale la rugosità garantisce che l'osso si integri più facilmente rispetto ad una superficie liscia. Cioè, anziché fare un pezzo, poi lisciarlo e poi scolpirlo, diciamo, per dargli la rugosità giusta, se sono veramente bravo riesco a fare in modo che il processo di stampa mi produca già la rugosità che mi serve. Sì, perché sfruttando la potenzialità che si ha nel fondere la superficie metallica si possono ottenere superfici molto rugose, poco rugose, così come si vuole, con l'obiettivo di garantire ad esempio l'osseointegrazione. Va bene, insomma, poi si potrebbero fare tanti esempi, non abbiamo il tempo, grazie Barbara Previtali. Grazie mille a voi. Va bene, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento come sempre a domani. A voi tutti una buona serata.